Magari ti chiamo per vedere se mi ascolti. È acceso qua, chiama pure quando vuoi, è acceso, va. Ok. Cappa. Luca, che c'è? Sei giù. Ciao Mari! Ciao Mari! Dimmi Luca. Già mi senti, sì. A voi ti sento. E dove ti trovi adesso? Ah, sono fermo alla Ushan. Ah, vai bene, vai. Vai benissimo, è a Puglia. Adesso volevo vedere se arrivo lì da Canica. Beh, devo lasciarmi fare, senz'altro. Se non c'è qualche ostacolo avanti, arrivi, dai. Vabbè. Già è acceso qua, chiama quando arrivi. Ehi, io! Cavolta è stata la campagna, come mai con questa giornata tu si dovrebbe andare a campagna? Ma dentro casa non ce n'è freddo, eh. Vabbè, certo. Allora c'è tutta un'altra cosa. Ma a casa i familiari della tua ragazza? Eia. Ah, eia, allora tutto tranquillo. Va bene, allora, va bene. Tanto c'è... Praticamente in cucina hanno la stufa, come si chiama? La cucina a legna. E dà un caldo da paura. Poi stare anche a maniche corte. Fuori non si può stare perché purtroppo non è giornata di arrostire. Però del resto già ci sta bene, dai, non mi posso lamentare. Per arrostire ci sarà qualche posto, punto, dove poterlo fare in modo da non avere, esserci freddo. Però se c'è da arrostire freddo se ne fa benedire, capito? L'importante è che si mangi. E si conferma, ma l'ospite devi andare. Beh, ci sto arrivando io. Sì, sì, Giovanni, benissimo. Sono qua, l'ospite per Danietta. E allora, siamo ancora vicini. Sì. Ma non sei in movimento, però. Sì, sì, sono in movimento. Non so se sto arrivando bene anch'io, boh. Un po' oscillante. Ah, che bello. Ha detto quella radio, bombon, caccia. È un bombon quella radietto. Certo. Va bene, lui, va bene. Per cui arrivi, e come? Non arrivi a fondo scala, per chiaro che... Però la radio è buonissima. Sì, se anche tu non arrivi a fondo scala, però la radio è buona lo stesso, dai. Va bene. Ho sentito più a California, ma morto è. Franco adesso si è fidanzato. Quello già lo sapevo, la conosco anche. Capito? Adesso... è quella faccenda. All'Ippica si sta dando da parecchio che non lo sento, quasi 7-8 mesi. Sarà fidanzato sicuramente, ma sarà assentato un po', boh, ma non c'ha più niente comunque. C'ha quelli due, quella, come si chiama, Lala c'ha, che gliel'avevo dato io, me l'aveva venduta a me, dopo gliel'ho ridato, va. Tanto che non ne facevo niente, gliel'ho ridato. Ho capito. Mira, si stavo fermando Gio Maria a prendere l'acqua, poi ti richiamo casomai, va bene? È acceso, è tutto acceso qua, dai. Chiama pure quando vuoi.